Come già sanno le alunne e gli alunni che ci seguono giornalmente, nella primavera del 2023 Mara, figlia di Adriana, ha presentato la sua tesina sui sette passi verso l'illuminazione, proponendo un percorso spirituale che lei stessa ha ricavato dopo aver messo a confronto per mesi quattro grandi mistiche, nelle pratiche delle quali ricorre il numero sette come via e guida verso il risveglio spirituale. Le mistiche sono le beghine medievali Hedwig di Anversa, Beatrice di Nazareth e Margherita Porete, e la cinquecentesca Teresa de Avila, riformatrice dell'ordine carmelitano. Tali visioni sono poi state integrate con quella di Edith Stein, la quale, ispirandosi a Teresa, divenne a sua volta una mistica carmelitana. Proponiamo di seguito, uno al giorno, i sette passi per chi voglia tentare di camminare la via di queste grandi donne. La presentazione è stata fatta in forma ridotta dalla stessa Mara ed è ascoltabile sul nostro canale al link che lasceremo in descrizione. Qua di seguito verrà invece proposto il suo testo integrale letto da me. Vi propongo di ascoltarlo in attitudine meditativa e con gli occhi chiusi. Cominciamo dunque col numero 1. Numero 1. La partenza richiede sempre il grande sforzo del primo passo. L'inizio, la volontà di percorrere un nuovo sentiero partendo dal nulla, l'unità in potenza. Siamo nel chakra della radice, legato alla sopravvivenza e al senso della realtà, così come la percepiamo, dove ci viene presentato il concetto di morte fisica e di immortalità spirituale. Nei tarocchi, è la lamina del mago, la carta dei talenti, delle potenzialità e delle abilità appena scoperte che attendono di essere espresse e messe alla prova. Se guardiamo alle virtù e ai peccati capitali della dottrina cristiana come archetipi, al di là del precetto religioso patriarcale, la prima virtù cardinale è la prudenza, che ci dona il discernimento e la lungimiranza. Mentre il peccato capitale corrispondente è l'ingordigia o peccato di gola, che ci mantiene nella costante paura di non sentire i nostri bisogni soddisfatti e di assumerci la responsabilità del nostro agire. Come superare queste paure e iniziare il nostro percorso? Ecco come ci rispondono le nostre guide. Il primo nome dell'amore di Hedwig di Anversa è il legame che dona la potenza e la saggezza. L'incontro con l'unità della Minne, la signora amore, da cui non c'è più separazione. È un richiamo forte che viene da dentro e che ci attrae senza possibilità di distrazione, innescando un meccanismo per il quale diventa insostenibile ed impensabile rinunciare all'amore. La prima maniera di Beatrice di Nazareth è il desiderio attivo dell'amore, che porta l'anima alla ricerca della perfezione, della purezza, della libertà dell'essere e della consapevolezza di essere create ad immagine e somiglianza divina. Questa ricerca è la ragione della vita ed è l'inizio del cammino spirituale che richiede costante dedizione, introspezione e attenzione verso il proprio operato nel mondo. Il cuore è il centro di questo cammino, perché è la sede non solo dei sentimenti e delle emozioni, ma anche della volontà e della conoscenza. L'anima si nutre di questa intensa forza e ne brama incessantemente il contatto. Scrive Beatrice: mai riposo si concede il cuore, né smette di cercare e supplicare, di attingere e tenere in mente ciò che può essergli d'aiuto e farlo progredire nell'amore per Dio. È la cura primaria dell'anima che in tale stato di intensità di anima e corpo agisce. Nel primo stato di grazia descritto da Margherita Porete, l'anima, toccata dalla grazia divina, diventa incapace di peccare e si dedica ai comandamenti amando con tutta se stessa tutto ciò che esiste. Ci vuole un cuore gentile e coraggioso, nobile e pieno d'amore per intraprendere tale percorso che porta l'anima ad essere semplice nel senso dell'origine etimologica dal latino sine plica, senza piega, quindi senza artificio, pura. Marguerite, Spiega che in questo percorso l'anima impara ad essere semplice, sine plica, proprio perché è senza attaccamento, dedita soltanto agli insegnamenti di Dhamma amore. Per continuare il cammino, essa deve passare attraverso la prima morte mistica, quella al peccato, per rinascere nella grazia. Non c'è ancora nobiltà in queste anime smarrite in cerca della retta via, ma la loro speranza è vivere nell'obbedienza della legge divina. Anche per Teresa de Avila, le prime mansioni del castello interiore sono le dimore più basse e vi entrano quelle anime che cercano di liberarsi dagli affari e dalla fretta della quotidianità. Sono stanze buie, piene di insidie, di creature nocive che ci portiamo appresso senza accorgercene e che tengono l'anima invischiata a quelle che lei chiama, tra virgolette, le cose del mondo. In queste stanze si inizia il percorso di conoscenza di sé, condizione necessaria in ogni momento del cammino. Ciò richiede uno stato di vigilanza continua per scoprire le trappole, gli inganni che si insinuano nell'anima, perché ancora non ci si rende conto del male che si procura a se stesse e a chi ci circonda, e tantomeno si è consapevoli di essere continuamente tentate e sviate nel percorso. Sono necessarie l'umiltà e il timore di Dio. L'umiltà è uno specchio in cui si riflette la bontà divina, poiché, come scrive Teresa, il principio del bene che facciamo non è in noi, ma in questa fonte nella quale è piantato l'albero delle nostre anime e in questo sole che feconda le nostre opere. Il timor divino è necessario per non cadere nell'oscurità e per non agire per suo conto. Né il castello dell'anima, Edith Stein, commenta il castello interiore di Teresa de Avila, sottolineando che l'autoconoscenza è il principio fondamentale per incontrare il divino e l'unico modo di mettersi in comunicazione con esso. Analizzando questo primo passo, la figura dell'amore coniugato al femminile è il perno fondante che unisce Hadweg, Beatrice e Marguerite. Dama divina e sublime che tutto prende e tutto dà, essenza misteriosa e potente, ma allo stesso tempo dolce e inebriante, che viene esperita con tutto l'essere, sia nel godimento che nella disperazione. Le prime due autrici, insieme a Mechthild di Magdeburg, danno all'amore divino il nome di Minne, ovvero la dama amore al femminile. Questo concetto si discosta dall'amore platonico della lirica cortese e dall'amore della poesia provenzale, ribaltando l'ideale cavalleresco caro alla poesia cortese. Di fronte a questa forza non c'è difesa e ci si può solo arrendere perché, come dice Hadweg, l'amore è tutto e la sconfitta nell'amore è la vera vittoria. Allo stesso tempo, il sacro e il profano trovano un punto di unione in cui la passione dell'eros, l'amore erotico secondo la filosofia greca, e la purezza dell'agapè, l'amore della sorellanza e della spiritualità, si fondono nell'esperienza sublime. Anche a livello linguistico, la minne, la amore, sempre maiuscola, si differenzia dal termine minuscolo lif o lifte, anch'esso usato per indicare l'affetto emotivo degli individui e la rappresentazione visibile dell'amato. La Minne viene chiamata da Marguerite dama amore, grande protagonista del miroir, lo speculum, lo specchio delle anime semplici. Ma è la stessa essenza soprannaturale, immanente, sacra e assoluta che viene esperita in tutto l'essere. Essa è la vera dimora, la meta del viaggio, l'esperienza universale dell'essere in cui si diventa l'amore stesso. Scrive Hadweg nel secondo canto: chi non si risparmia per l'alto amore è saggio in ogni sua opera. Amore è dama e regina, molti è capace di innalzare, fa tutto il suo bene, chi eleva la sua forza e la sua mente, così che amore riconosca il suo agire. Per quanto amore gli sembri feroce, la conquisterà. Per questo amore è donna, perché è madre di tutte le virtù, feconda, porta in grembo la sola fedeltà che rafforza chi ama e ci ha innalzati, guarendo ogni dolore. Così dolce è l'amore nella sua natura da vincere ogni altra forza. Chi ama sopporta il peso di avventure prima di comprenderne l'agire. Per essere da lei pienamente amato, assapora l'aspro e l'amaro. Non potrà resistere un'ora sola finché amore non lo incateni all'amore e lo conduca alla fruizione. Ma chi brama la fruizione d'amore vincerà ogni dolore. Non può morire chi da amore è toccata. Il suo nome è amor, senza morte. Consapevole che l'amore è l'inizio e la fine, Teresa risponde alla domanda che ci siamo poste alla partenza del percorso e ci porta incontro il principio chiave, la conoscenza di sé, ossia lo sforzo costante di essere vigili e presenti a noi stessi in ogni istante. Marguerite fa eco a questo principio, spiegando e ripetendo i concetti più complessi per le smarrite e gli smarriti, ossia coloro che sono consapevoli del loro errare in un sentiero lontano dalla via maestra e che chiedono di essere accompagnate verso la rettitudine da Madamigella Conoscenza. Per fare ciò è richiesta la morte del peccato per il risveglio nella grazia, seguire i principi divini e il buon senso per rimanere integre e libere. Quindi, per poter progredire oltre, questa morte del peccato richiede il primo salto nel vuoto perché la conoscenza di sé non può passare per Dama Ragione, il controllo razionale e l'abitudine programmata, ma è piuttosto chiedere consiglio a Sua Altezza l'intelletto d'amore, ossia la ragione al di sopra della dualità, affidandosi al suo gioco e legandosi ad essa con volontà e desiderio. Dice Dama Ragione nello Speculum: nessuno capirà questo libro. A mio modo di intendere, se non lo capisce per la virtù della fede e per la forza d'amore, che sono le mie maestre, dato che io obbedisco in tutto a loro. Marguerite stessa interviene nel dialogo in alcuni capitoli dello Speculum per dirci che Dama Ragione, accorgendosi della felicità dell'anima, non riesce a capirne il motivo e l'accusa di peccare. Scrive: Ragione giudica sempre secondo quel che sa, infatti vuol sempre compiere l'opera che le è propria. Ma in questo caso vede con un occhio solo, perciò non può vedere così in alto e fa all'anima questo rimprovero. Ragione è cieca da un occhio. Advaith aggiunge che la ragione non va eliminata perché ci è utile nella perseveranza, nella coscienza e nella verità, ma è necessario vincerla. Questa è una delle trappole che la Minne, la signora Amore, ci tende per mantenerci sulla giusta strada. Scrive Advaith: Così mi ferì la ragione. Mi parve un atto ostile avermi privata di quell'abbondanza che amore stessa mi aveva concesso. Mi parve un atto ostile, ma la ragione mi insegnò a vivere nella verità. Tramite la ragione si può vincere la vera fruizione d'amore se la ragione percepisce che si è fatto abbastanza per entrambe. La vera fruizione d'amore è offerta dalla ragione all'amore. Nel vincere il favore della ragione sta tutta la perfezione dell'amore. Il primo passo perciò è rappresentato dalla volontà di andare dentro, verso di noi, alla ricerca di quell'amore che sappiamo essere immenso e che permea tutte le cose, comprese noi stesse. Ci vuole disciplina per non soccombere a questo compito, perché la dolcezza dell'amore inganna. Qui ci può venire in aiuto la ragione che con verità e rigore ci mostra quanto è lungo il cammino, e Advaith lo esprime chiaramente in questi versi. Alcuni si illudono di avere grande fortuna in amore, vedono ovunque montagne e vallate in fiore, ma poco otterranno se vorranno cogliere la verità. Nelle opere di fedeltà si dimostra se si possa trarre profitto dall'amore. Molti dubitano dell'amore, troppo dura gli sembra la fatica, poiché da principio nulla ottengono, pensano perché così vagare? Se fosse chiara ai loro occhi la ricompensa che amore dona alla fine, io oso dirlo chiaramente, vagherebbero nella miseria.